Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Nel 2005 si contavano 198.256 auto blu in Italia, mentre in Francia se ne contavano 65.000, in Inghilterra 58.000, in Germania meno di 50.000. Nel 2007, nonostante i proclami di tagli e risparmi sulla spesa pubblica, le auto blu in Italia sono addirittura triplicate, con quasi 580.000 vetture oggi in giro. Paolo. Caro direttore, quando alla vostra radio intervengono politici, sindacati o anche gente comune, sento spesso chiedere una maggiore incisività nella lotta all'evasione fiscale. Nulla in contrario. 200 miliardi stimati di evasione sono tanti, ma quando si invoca questo, si pensa sempre e solo ai lavoratori autonomi. È frustrante passare per la causa di tutti i mali, mi creda. Faccio parte di una famiglia di commercianti. In base a quali colpe noi, impresa familiare, dobbiamo sentirci tirare in causa o additare dal pubblico giudizio come dei furfanti, per aver lavorato tutti quanti per anni e anni senza mai un giorno di mutua, senza mai pesare sulle casse statali, senza avere nemmeno uno solo dei vantaggi che hanno i dipendenti pubblici o privati? Se un dipendente si reca a donare sangue alla giornata retribuita, se diventa consigliere comunale ha dei permessi di 2 o 3 giorni in occasione dei consigli, ha diritto all'aspettativa, alla tredicesima, la liquidazione. Se le cose vanno male, ha la cassa integrazione. Un lavoratore autonomo ha solo se stesso e vive della sua capacità di razionalizzare le proprie energie, valutando i rischi e imparando a gestire l'azienda al minimo dei costi in relazione al reddito. Una vita di sacrifici per poi sentirsi una sorta di essere ripugnante da mettere alla gogna in piazza. Perché questo succede anche quando non viene fatto uno scontrino per un bicchiere d'acqua. Pagare le tasse è giusto, ma il carico fiscale è molto alto. A volte, senza ipocrisia, si cerca di pagare meno per una questione di sopravvivenza. Questo, per l'opinione pubblica, alimentata sapientemente dai media, è un reato da punire con una sorta di lapidazione, mentre invece si ignora, o si considera una forma legale di sopravvivenza, se il dipendente pubblico lavora in nero, se i pensionati lavorano in nero, se i docenti rimandano i ragazzi a settembre proprio per procurarsi le lezioni private, rigorosamente in nero, se alcune cooperative impiegano percentuali altissime di lavoro nero, come del resto i cantieri edili o di grandi opere pubbliche. Già, i pensionati lo fanno per arrotondare, si dice, mentre un commerciante lo fa per avidità, non per sopravvivere. Eppure basta valutare il saldo delle piccole attività tra chiusure ed aperture. È nettamente negativo. Crede forse che un negozio che guadagna bene chiuda perché il titolare si è arricchito? È frustrante davvero, viene la voglia di smettere e le assicuro che molti non lo fanno per orgoglio oppure per mancanza di alternative, accontentandosi e riuscendo a vivere con dei redditi bassissimi grazie alla loro capacità gestionale. È ora di finirla di demonizzare un tessuto sano, spesso composto da imprese familiari, che costa poco o nulla allo Stato. Si facciano delle valutazioni di costi-benefici. Un dipendente lavora 200 giorni all'anno, un autonomo 300. Si dividano i redditi per le giornate lavorative effettive. Ivano, provincia di Piacenza. Cara Radio 24, ti scrivo a riguardo del contributo una tantum che va a tassare i redditi oltre i 120.000 euro. Di principio trovo giusto che in momenti di difficoltà chi più può, più deve dare. Ma credo che sia quantomeno inopportuno spremere quelle categorie produttive che sono, assieme agli operai e agli impiegati, la vera spina dorsale dell'economia. C'è il serio rischio di demotivare il professionista o l'imprenditore che dichiara comunque un onesto e verosimile reddito. Se mi permettete, ve lo posso dire io dove andare a recuperare i quattrini. Stando a quanto mi risulta, ci sono circa 60.000 pensioni d'oro in Italia, oltre i 5.000 euro al mese. Ebbene, se a questi super nonni, che presumibilmente non debbono più mantenere figli e figliastri già svezzati, andiamo a togliere un 5-10% fisso, recuperiamo un bel po' di denari che possiamo dare ai loro coetanei meno fortunati, i pensionati da 600-800 euro al mese. I super nonni, nella peggiore delle ipotesi, si perderanno la crociera di Capodanno. Poverini. Lettera firmata. Egregio direttore, l'ennesimo dramma preannunciato. I cani che sbaranano un bambino. Il sindaco di Siracusa afferma che mancano le leggi o non sono adeguate. Vorrei fare un'affermazione da semplice cittadino. Le leggi esistono. L'Italia è forse l'unico paese dove non mancano le leggi. Sono le pene che non vogliono essere date. Il problema è, si cerca di salvaguardare Caino, ma ad Abele non ci pensa nessuno. Le leggi esistono, quindi se il fatto era preannunciato, la cosa è ancora più grave. Se qualcuno aveva denunciato l'avvistamento dei cani, si tratta di omissione. Nel 2006 il ministro responsabile della sicurezza diceva che gli servivano altri 800 ispettori. È sempre la stessa storia. Mi serve questo, mi serve quello. Se succede un infortunio, si analizzano i punti dove è avvenuto il mancato rispetto delle norme o del buonsenso e si applicano le sanzioni dovute. Non si avrà la prevenzione da parte dello Stato, ma sicuramente la si potrà avere da parte di tutti gli altri. Così spero accada per l'episodio di questi giorni. Spero che se qualcuno ha sbagliato, paghi le conseguenze. Ricordo ancora che non è possibile avere un militare per ogni ragazza, uno per ogni bambino o un ragazzo, un ispettore per ogni lavoratore. Almeno non alle condizioni economiche odierne. Stefano. Credo che le ultime tristissime vicende che hanno visto il decesso o il ferimento grave di alcuni bambini a causa di cani che vivevano nella stessa casa, oppure non custoditi e lasciati allo sbando comportamentale, faccia comprendere quanto possa essere efficace un'ordinanza contingibile e urgente, rifatta per 5 anni dal 2003, che definisce un cane come impegnativo e incarica del segnalamento i veterinari che li visitano per le vaccinazioni. Molti cani, soprattutto se mal gestiti e mal custoditi, non vengono mai visti da nessun veterinario ed è comunque impossibile comprendere dai pochi minuti di visita se un cane è un soggetto problematico, dato che può essere meraviglioso con gli adulti, ma un killer per un bambino. È ora che la gestione degli animali domestici esca dalla sfera degli hobby, cani venduti dai garden, nei negozi a bordo strada, trovati per caso e contrattati su internet a man bassa, ed entri in una sfera di professionalità globale, che parta dal momento della riproduzione fino alla consegna a quello che sarà il proprietario finale. Basta con le piccole norme di facciata che non risolvono il problema della corretta convivenza tra uomo e cane. Laura. Egregio signor direttore, non riesco a spiegarmi come si possano dare milioni di euro alle banche perché facciano ripartire l'economia. Secondo la mia esperienza, l'economia va quando il mercato tira, o meglio, quando la massa delle persone compra un determinato bene. Perciò i soldi non dovrebbero essere dati solo alle banche, ma distribuiti con un senso di giustizia a tutta la popolazione. Personalmente non credo che un disoccupato, un cassintegrato, un sottostipendiato possa avere i soldi per acquisti superflui. Acquisterà solo il minimo indispensabile per sé e la sua famiglia. L'economia non ripartirà se la massa non avrà la possibilità di spendere di più, senza indebitarsi. Antonio, provincia di Vicenza. Caro direttore, sia nei paesi extracomunitari che in molti paesi della comunità europea, le pene per chi delinque sono 4 volte superiori a quelle italiane e senza benefici carcerari. Se a questo aggiungiamo che i controlli alle frontiere sono blandi e in troppi centri decisionali prevale l'idea che l'immigrato sia sempre e in ogni caso da accogliere, si capisce perché siamo diventati una calamita potentissima per tutti i criminali del mondo. Edoardo. Sabato scorso a Milano, 50.000 ragazzi sono stati condotti dalla provincia alla premiazione dei graffiti più belli. E come testimonial, Dario Fo, Atomo Tinelli e 2 graffitari abusivi, Pao e Ivan Tresoldi. Dario Fo ha fatto il suo solito concione a senso unico, dove se la prendeva ovviamente con l'amministrazione del comune di Milano, che ha messo i jumbotram, che a lui fanno schifo, mentre reprime i graffittari, che invece colorano la città. Ma come può un'istituzione come la provincia di Milano fare una manifestazione di questo genere? Questa sarebbe l'etica e il senso delle istituzioni e degli amministratori della provincia? E la magistratura che fa? E i politici di opposizione? Perché non si oppongono un po' di più? Mara. Fino a un paio di anni fa sembrava che fossero finiti i soldi per le pensioni e che queste non avrebbero più potuto essere erogate. Da allora non se n'è più parlato. Salvo errori, la cassa integrazione gravava sui fondi dell'INPS e quindi delle pensioni. Con tutte le erogazioni che si stanno facendo ora e delle quali tutti si riempiono la bocca, senza però dire con chiarezza da dove vengono i fondi, forse